falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Anche oggi parliamo di una donna molto bella, ma soprattutto una donna che non molla la presa, una donna di grande carattere. E parliamo delle sue tre vittorie diverse in tre campi diversi. Lei si chiama Annalisa Minetti, potrei dire Miss Italia Annalisa Minetti, perché lei partecipa a Miss Italia. Potrei dire la vincitrice del Festival di Sanremo, perché lei partecipa a Sanremo e lo vince. E potrei dire la grande atleta paraolimpica Annalisa Minetti. Tutte e tre le cose, vedremo come e perché. Miss Universe is... Bene, avete sentito la proclamazione di questa ragazza che si chiama Paulina Vega, colombiana, una nuova Miss Universo. Ha vinto a Miami lo scorso 25 gennaio. Vincere un concorso di bellezza è un sogno che molte ragazze hanno. Ultimamente Miss Italia di smalto ne ha perso parecchio, ma comunque rimane come idea un traguardo inseguito da molte ragazze, soprattutto da quelle carine o che ritengono di esserlo. Così facciamo un passo indietro di qualche anno e andiamo al 1997. Quell'anno la finale di Miss Italia è presentata da Fabrizio Frizzi e tra le varie partecipanti, tra le finaliste, ci sono alcune ragazze che faranno parlare di sé negli anni a venire. Tra tutte Mara Carfagna, quando ancora non si dedicava alla politica. Ma tra le 100 più belle che hanno passato le selezioni in quel 1997 c'è anche una ragazza di Rho che ha vinto il concorso di Miss Lombardia. È alta, bionda, un bellissimo sorriso e non solo quello, insomma. Fin qui niente di eccezionale, niente di importante per farla risaltare in mezzo alle altre 100. Eppure la stampa parla solo di lei. Il suo nome è Annalisa Minetti. Miss Lombardia, Annalisa Minetti. Annalisa attira l'attenzione della stampa perché all'epoca è ipovedente, cioè ha una riduzione sensibile della vista. In sostanza vede solo delle ombre e questa sua patologia è provocata da una degenerazione maculare ed una retinite pigmentosa e purtroppo è destinata a peggiorare, è irreversibile. È ospite di una puntata della Vita in Diretta e racconta come ha affrontato il concorso di Miss Lombardia. Quando mi hanno selezionata per poter partecipare a Miss Lombardia, chiaramente io conosco il cuore degli italiani e mi ero detta, se dico che sono ipovedente, perché ai tempi ero ipovedente, sono convinta di vincere in quanto ipovedente, non per eventualmente per la mia bellezza. E quindi sulla base di questo mi sono informata e gli auricolari che usavo per sciare erano possibili anche per essere utilizzati poi in sfilata e quindi insieme appunto all'Unione Ceca Italiana ci siamo inventati questo auricolare un pochino più piccolo che mi permetteva di essere radio guidata. La platea di Salso Maggiore fa un po' più paura, così Annalisa Minetti, la ragazza dagli occhi blu, decide di rivelare alla stampa il suo problema. Ma in realtà è veramente un problema, oppure siamo noi che vediamo il problema nella persona che abbiamo davanti, siamo abituati noi a catalogare le persone come fortunate o meno. Tra l'altro Annalisa è una ragazza solare e ve lo posso dire per esperienza, perché io la conosco abbastanza bene, è piena di voglia di vivere, non soffre di questa diversità e soprattutto è lei che fa molte battute dicendo che bisogna fidarsi ciecamente di chi ti suggerisce le cose all'auricolare, oppure quando racconta quello che le ha detto un giorno suo nonno. Che mi diceva, oh però te l'hanno tirata da piccola, e faccio, perché nonno? È perché tutti alla nursery ti guardavano e dicevano, e che begli occhi, che begli occhi, che begli occhi, mo si ciecato. È una ragazza spiritosa ma anche tenace, perché al concorso di Miss Italia il pubblico si spacca. Da una parte c'è chi sostiene che lei sia arrivata lì solo per merito, se così possiamo definirlo, della sua malattia. Altri invece dicono che è bella e quindi ha diritto di stare tra le finaliste. A risolvere il problema ci pensa la giuria, che la fa entrare nelle prime 10, ma non la fa vincere. Non si classifica neanche tra le prime 3, vincendo solo il premio di Miss Gambissime, premio vi assicuro meritato. Annalisa ha dato il primo colpo d'ali alla sua vita e ha raggiunto un obiettivo, ma questo è solo il primo degli obiettivi, la sua storia è appena all'inizio. Per amore dei tuoi occhi blu avrei dato la vita, mi sarei consumato le dita a strapparti pepite dal cuore, avrei speso la parte migliore, avrei fatto il soldato e avrei scelto di andare a morire con dentro un amore più grande di te. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Annalisa Minetti alle prese con Miss Italia, manifestazione nella quale lei, grazie anche alla sua avvenenza, arriva in finale. Però le sue aspirazioni vanno oltre, lei vuole fare la cantante, ha 15 anni quando inizia a cantare nei piano bar. Ricordiamo che in quel momento non ha ancora avuto la terribile malattia che si svilupperà solo attorno ai 18 anni. Prova a proporsi alle case discografiche, ma emergere è molto duro e, come capita a molti, Annalisa colleziona una serie di rifiuti. Poi arriva un'occasione, perché a Miss Italia canta Caruso accompagnata al piano da Fabrizio Frizzi. Qui dove il mare è logica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza guardando il golfo. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ti comincio il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sì. Questa piccola performance in uno spettacolo così seguito le fa da curriculum, così alla successiva edizione di Sanremo Giovani vince e riesce a approdare al festival nella sezione giovani. È cominciato un altro sogno. Siamo nel 1998 ed è un festival particolare perché è l'unico che viene presentato da Raimondo Vianello, che si affianca alla bellissima Eva Erzigova e alla simpatica Veronica Pivetti. Questa discrepanza tra le due tipologie di donne diventa esilarante nelle scenette che Raimondo Vianello fa con le sue vallette, con la Pivetti che lo provoca su Sandra. Buonasera a tutti. Sì. Senti, io le voglio chiedere una cosa. Sì. Da molto tempo, almeno 2 giorni. Sì. Posso chiedergliela? Dica, dica. Oh, beh, è molto comunque gentile. Sandra. Zitta, non parliamo di... Qui è tardi, dobbiamo andare avanti, il programma ha i suoi tempi. Chi è Sandra? Sandra, tu non la conosci perché sei straniera, beata te. È un'edizione strana, perché non ci sono canzoni che passano alla storia come è accaduto in altre edizioni, no? Non c'è né Volare, né Vacanze Romane, né Terra Promessa di Ramazzotti. Insomma, è un festival che si ricorda più per la simpatia di Vianello e per il cast stellare di ospiti, per dirne alcuni: Madonna, Céline Dion e Ricky Martin. Poi c'è quello strano regolamento secondo il quale i primi tre classificati della sezione giovani vanno a gareggiare anche la finalissima con i big. Sarebbe come se chi vince la serie B fa subito anche la serie A nello stesso anno. Comunque c'è la possibilità, che apparentemente sembra remota, che un giovane esordiente possa battere i grandi della musica italiana. Annalisa Minetti partecipa con un pezzo che resta ad oggi il suo successo più grande: Senza te o con te. Senza te o con te, la canzone di Annalisa, stravince la sezione giovani. E per lei è già una soddisfazione enorme, anche se sembra rovinata un po' la felicità di quella serata, perché nel dopo festival che viene condotto da Chiambretti, Aldo Busi, piuttosto agguerrito, le dice chiaramente che sta sfruttando come una miniera d'oro il suo handicap, che è un mezzo che lei adopera per vincere. Però Annalisa ha carattere, va molto oltre le polemiche e lo dimostra anche vincendo la finale con i big. Un altro traguardo viene raggiunto. Miss Italia e Sanremo, due schiaffi a una malattia che ormai l'ha resa quasi del tutto cieca. Attenzione, uso di proposito la parola cieca, non quella non vedente, per lanciare un segnale contro queste ipocrisie di rendere meno gravi le cose cambiando loro il nome. Cieca. Così come quando si dice che uno ha un brutto male e non si vuole chiamarlo con il suo vero nome, tumore. O come quando nei telegiornali si dice ci ha lasciato, si è spento, ha cessato di vivere, tutto per non dire è morto. E la stessa Annalisa a parlare di questo argomento in una intervista rilasciata per La 7 a Cristina Parodi. Il vero handicap è proprio l'ignoranza, non c'è handicap peggiore e purtroppo ce n'è veramente tanto. Questa ragazza dell'Inter, la milanese, è proprio tosta. Ma torniamo al clima sanremese. E diciamo che la carriera di cantante di Annalisa prosegue anche dopo la vittoria del festival. L'anno dopo, siamo nel 99, Annalisa partecipa a un festival molto ambito, molto famoso, che si fa in Cile a Viña del Mar, il Sanremo del Sud America, e viene accolta come una grande star. È il momento di invitarles a disfrutar de una magnífica voz. Durante los días que nos han acompañado en Viña del Mar ha sido parte del jurado festival. En 1997, sorteando un montón de dificultades, participó en el certamen Miss Italia y fue finalista. En 1998 se presentó en el Festival de San Remo y con la canción Contigo o Sin Ti logró el primer lugar. En esta hermandad de los países, en esta hermandad de Viña del Mar con San Remo, esta noche tenemos el privilegio de presentar a la gran triunfadora. Una mujer excepcional con una voz que ustedes no van a dudar en aplaudir. Aquí está Annalisa Minetti. Niente male, niente male, una mujer excepcional. C'è anche il tempo per un secondo album e qui molti autori scrivono canzoni per lei. Antonacci, Ron, le ho scritto una canzone anch'io, si chiama La luce in me. C'è anche un musical che si chiama Beatrice e Isidoro allo Smeraldo di Milano, un bellissimo teatro che adesso non c'è più, adesso si mangia, c'è Italy. È un posto altrettanto bello, però lo Smeraldo era lo Smeraldo. torna a Sanremo nel 2005 con Toto Cutugno e si classifica seconda. Insomma, tante cose per una ragazza che, non dimentichiamolo, sta convivendo in modo sereno e autoritario, con grande piglio, con la sua disabilità che è diventata totale, perché Annalisa oggi non ci vede più, o come direbbe lei, è completamente cieca. Io ti proteggerò, o sì, ti stringerò, e mai niente ti farà del male. Io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare, e ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuona il temporale, e sempre ti sussurrerò quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Farò una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. Per poterti meglio abbracciare, e se fa freddo la notte col mio corpo ti potrai scaldare, e dopo ore, ore, ore d'amore sul mio petto ti farò dormire, e sognerai di ballare da tempo col mio cuore, e il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Piccole pietre da trasportare e da seguire per ritornare. Falco e Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Annalisa Minetti, una bellissima ragazza che vince a una le sfide che la vita le propone. Intanto partecipa a Miss Italia, poi vince Sanremo in più categorie, perché negli stessi giorni passa da vincitrice dei giovani a vincitrice dei big. Ma soprattutto stiamo raccontando la storia della tenacia e dell'esempio che dà una donna ipovedente, che progressivamente diventa non vedente, un esempio per tutte le persone che inseguono un sogno e cercano in qualche modo di realizzarlo. Ma i sogni di Annalisa non sono ancora finiti, e così lei affronta un'altra sfida. Da sempre è stata appassionata di atletica, si tiene in forma e pratica uno sport che è il duathlon, corsa abbinata a ciclismo. Improvvisamente però decide di allenarsi professionalmente per partecipare alle gare ufficiali per atleti disabili. Settembre scorso ho iniziato ad avvicinarmi all'atletica leggera, arrivavo dal duathlon, che era una disciplina completamente diversa e che facevo comunque a livello amatoriale. Poi ho fatto un test sui 1500 e sugli 8 con Andrea. E così istintivamente ho chiesto ad Andrea se accompagnavo, se mi preparava per questo sogno olimpico, paralimpico, e lui ha accettato, insomma, di potermi preparare e sognare insieme a me di poter fare nuovamente un'Olimpiade. Per lui sarebbe la seconda, per me è la prima. Andrea Giocondi è il runner che corre al fianco di Annalisa Minetti. Sì, perché la disciplina della corsa si svolge naturalmente con un atleta che corre accompagnato da un atleta guida. Se volessimo fare gli spiritosi come Annalisa è abituata a fare, diremmo una versione 2.0 del cane guida. In realtà, come possiamo capire, è una simbiosi molto stretta tra due persone che devono correre alla stessa velocità. Uno dei due è l'allenatore ed è quello che ci vede, e l'altro è quello che in qualche qualche modo deve adeguare il ritmo dell'altro atleta, quindi una cosa non semplice. L'azione di corsa di un atleta non vedente è ovviamente meno naturale di quella di un atleta vedente. È chiaro che noi siamo legati a un cordino, questo cordino lega l'atleta guida all'atleta appunto non vedente in questo caso, e ti porta comunque, è lui che detta i ritmi. Oh, non dimentichiamoci che nel frattempo la ragazza ha anche trovato il tempo di diventare mamma. Così continua la sua carriera nel mondo della musica e quindi deve conciliare gli allenamenti, i doveri che tutte le madri hanno e le canzoni. E se vuoi fare un'Olimpiade, anche se si chiama Paralimpiade, ti devi allenare, devi raggiungere dei tempi significativi per poter competere con gli atleti di tutto il mondo. Ma io prima mi allenavo molto di più e senza obiettivo. Io prima semplicemente per l'aspetto fisico, per il proprio benessere, facevo 4 ore di allenamento al giorno, perché preparavo la corsa e preparavo la bicicletta, quindi mi allenavo moltissimo. Il ciclismo richiede più tempo nell'allenamento, comunque si parla sempre di un minimo di 90 km e un massimo di 120, cioè 200, perché preparavo le gran fondo, quindi stavo molto più tempo fuori, sotto il freddo, l'intemperie, eccetera. Quando ho conosciuto l'atletica ho visto che in un'ora, in 2 ore, compresa la dozza, finivo, ed è però un'ora e mezza di lavoro veramente concentrato e faticoso. Insomma, io vi ho detto, atletica leggera sarà una cavolata, invece di leggero non c'è proprio niente. No, direi che l'atletica leggera di leggero non ha proprio niente, lo sanno i grandi campioni e a maggior ragione lo sentono ancora di più gli atleti disabili, che ovviamente hanno nella loro condizione una serie di ostacoli fisici e soprattutto psicologici da superare. E allora ognuno ha il suo metodo, sentiamo qual è il metodo di concentrazione di Annalisa. Io faccio moltissimo lavoro di testa, nel senso che continuo a ripetermi delle frasi ben precise, dico sempre non è importante vincere, non pensare a vincere, pensa a correre per tutte le persone che in te credono. E poi continuo a dire dai, non c'è fatica, non c'è dolore. Beh, la ragazza ha la testa dura e questa sua testardaggine la porta a specializzarsi nella corsa sulla distanza dei 1500 metri. Riesce a ottenere il tempo di qualificazione per le Paralimpiadi di Londra del 2012 e lì vince la medaglia di bronzo, che in realtà vale un oro perché è la prima delle atlete che corrono con l'accompagnatore, cioè le prime due, essendo ipovedenti, riescono a correre da sole e quindi evidentemente sono avvantaggiate. Non è la stessa cosa, come ci ha detto prima lei. Io dico sempre che quando il sogno non è individuale si realizza. Siccome il mio è un sogno assolutamente collettivo, perché è il sogno mio e di Andrea, è il sogno mio e delle nostre famiglie, perché mio marito, sua moglie, i nostri figli sono comunque tendenzialmente lì a gioire per noi, a fare delle nostre soddisfazioni e le loro soddisfazioni. E poi c'è tutto un mondo di ragazzi disabili che credono che volere potere. Annalisa non è contenta, così nel 2013 va a Lione ai campionati del mondo e stabilisce il record del mondo sulla distanza degli 800 metri, che corre, beata lei, in 2:21.82. It's Minetti for Italy from Arango Petrego of Colombia. They've got about 500 meters to go. She looks absolutely magnificent, lovely, lovely, effortless running style. From Annalisa Minetti of Italy, coming round the bend into the 100 meters straight now, and the crowd now making some noise, and now she's moving away, stepping up another gear. She's got loads of running left in her. Minetti of Italy is going to be a fantastic winner in this. Arango Petrego of Colombia is going to be second, and it will be Sedlakova of the Czech Republic third. She crosses the line. Minetti of Italy in a new championship record. New championship record for Annalisa Minetti. She crosses the line, passa la linea, la passa un'altra volta. È una bella soddisfazione per una ragazza che sembrava segnata da una malattia e invece riesce a raggiungere traguardi incredibili. Miss Italia, Sanremo, le Olimpiadi, il record del mondo. Una Wonder Woman dagli occhi blu, quegli occhi che l'hanno abbandonata da piccola, ma dei quali lei ha saputo fare a meno. Testimonial dell'ottava giornata nazionale dello sport paralimpico a Città di Castello è stata Annalisa Minetti. Annalisa, tanti successi alle spalle, da Miss Italia a Sanremo, ma lo sport e la medaglia vinta alle Olimpiadi di Londra sono il risultato più importante, come tu stessa hai più volte sottolineato. Ma sicuramente sì, mi sono sempre sentita un'atleta nella vita, ho sempre in qualche modo cercato di vincere quelle che erano le gare che le Olimpiadi della vita mi proponevano lungo il percorso, però poi ho detto beh, adesso dato che mi sono allenata per tanti anni e per tanto tempo, sarà caso che comunque in qualche modo cerco di portare alla luce quelle persone che spesso non vengono messe al buio, e quindi tutti gli atleti che come me vengono considerati sì atleti ma non per il valore che realmente hanno, e quindi mi sono cimentata nello sport paralimpico, mi sono cimentata perché avevo voglia che comunque venisse ufficializzato questo concetto di base. Noi siamo uno sport in qualche modo forse pulito, direi, uno sport trasparente, uno sport che come doping usa la forza di volontà, il coraggio e l'impegno che determinano poi i risultati e gli obiettivi raggiunti. Il coraggio è il vero doping, sono parole di una grande forza capace di abbattere qualsiasi muro e di riempire di fiducia chiunque voglia, pur nella disabilità, affrontare sfide difficili e raggiungere, come Annalisa, risultati molto importanti. Oggi nella settimana di Sanremo abbiamo raccontato una storia tra le tante di queste 65 edizioni, ma alla fine ci siamo ritrovati a parlare di qualcosa di più, che va al di là della musica, perché questa è una storia di coraggio, di tenacia e, perché no, di successi. Annalisa Minetti è oggi una dei tanti atleti paraolimpici che tengono alto il nome dell'Italia, raggiungendo risultati, ma dimostrando al mondo che si può fare tutto, basta volerlo. Ce lo dice anche Cecilia Camellini, classe 1992, non vedente dalla nascita, che in due diverse edizioni di Paralimpiadi a Pechino e a Londra ha portato a casa 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi nel nuoto. Però il fatto di essere alle Olimpiadi comunque è già bello di per sé, quindi quando si dice l'importante è partecipare è proprio vero, perché magari uno pensa ok, vado là a vincere delle medaglie, invece no, è bello proprio sapere di essere lì tutti insieme in questo villaggio in cui si respirano i valori dello sport alla loro ennesima potenza. Quindi abbiamo atleti che vengono da tutte le nazioni del mondo, che ok, quando sono sui campi di competizione competono, ma quando vivono insieme a stretto contatto nel villaggio olimpico sono felici di rimanere tutti insieme e di condividere un sogno, di condividere il fatto di essere lì, di avere fatto tanti sacrifici, ma di esserci arrivati, ecco, di essere arrivati in cima e quindi si godono il momento. Beh, io di cose nella vita ne ho fatte tante, però devo dire che se dovessi sceglierne una ancora avrei scelto di partecipare a un'Olimpiade, perché credo che l'ambiente che si respira nel villaggio olimpico sia qualcosa di veramente forte, una sensazione bella e forte. Comunque questa è una dichiarazione di una normalità assoluta, quella di Cecilia Camellini, che qualunque atleta avrebbe potuto dare anche se non fosse stato disabile. Quindi la diversità in realtà, a pensarci bene, è solo un fatto di abitudine, quasi uno stereotipo creato dalla mente. Roba da psicologi, e psicologia è proprio la materia che studia Cecilia all'università. E sentite cosa ci dice a proposito dei limiti di una persona disabile. Ho sempre cercato comunque di fare tutto ciò che facevano e che fanno le altre persone, chiaramente senza andare ovviamente oltre a quello che posso fare, quindi senza negare l'esistenza di appunto un problema visivo, però ho cercato sempre, cerco di fare in modo che questo non sia una limitazione ma sia un vantaggio, diciamo un vantaggio o qualcosa che potrebbe tornarmi utile, quindi anche prendendo un po' così nel mio futuro lavoro di psicologa, chiaramente la capacità di ascoltare direi che cercherò di metterla a frutto nel migliore dei modi, ecco, quella ce l'ho, almeno ci proverò. Beh, sono tante le storie di persone che proprio per essere partiti da una condizione, diciamo così, di svantaggio, di disabilità, hanno sviluppato veramente quelli che io chiamerei gli anticorpi della vita, cioè la possibilità di trovare dentro di te delle energie che forse se tu avessi avuto una vita normale non avresti mai saputo di avere. Cecilia è una ragazza dalle idee chiare. Pensate che il giorno dell'intervista aveva dato un esame, tra l'altro un esame scritto. Beh, siamo sicuri che sarà andato bene. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto, fare delle cose che hanno lasciato un segno, e spesso queste storie sono sconosciute. Oppure sono storie che pensiamo di conoscere, ma delle quali non sappiamo moltissime sfumature. Sono storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, soprattutto di chi è caduto e di chi è risalito, perché ciascuno di noi nella sua vita cade o comunque può rischiare di cadere, però c'è anche il momento di dare il colpo d'ala, quello che ti porta a volare in alto come il falco e come il gabbiano. Bene, se volete mandarci i vostri commenti oppure segnalarci altre vite su cui puntare i riflettori e la mia voce, scriveteci al falcoilgabbiano@radio24.it oppure sul profilo Facebook, oppure comunque insomma cercatemi che mi trovate. Ciao. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.